Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. Da Gigi Donelli e da Alessandro Schirano un saluto, un buongiorno a tutti voi. Bentornati all'appuntamento con le notizie europee. Oggi abbiamo cronaca nella prima parte, nella seconda avremo poi un collegamento con Zagabria per parlare di elezioni imminenti e di elezioni appena avvenute, dunque Croazia e Serbia, naturalmente ricordando nell'agenda così mentale di questa settimana che domani Varsavia, Polonia, la Polonia vota per l'elezione del prossimo presidente. In tutte queste manifestazioni di voto e di volontà democratica, naturalmente fa capolino Covid. Sentiremo come in particolare anche la gestione della crisi, dell'emergenza abbia in qualche modo favorito alcuni candidati piuttosto che altri. Ma allora partiamo dalla notizia per cui il comitato dell'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA, comitato che si occupa dei medicinali umani, abbia raccomandato in settimana l'approvazione all'immissione in commercio del Remdesivir, un farmaco per il trattamento del Covid-19 messo a punto a suo tempo per Ebola e per il virus Marburg, farmaco che viene dunque approvato per l'utilizzo in adulti e adolescenti dai 12 anni di età con polmonite che richiede il supporto respiratorio. È di fatto il primo farmaco contro Covid-19 a ricevere l'approvazione ufficiale da parte dell'Unione Europea, o meglio dall'Agenzia del Farmaco dell'Unione. Ora manca solo la formalizzazione, che tutto sommato sembra implicita, della Commissione Europea. Allora sentiamo su questo il servizio di Sergio Nava. Approvazione condizionata del Comitato dell'Agenzia Europea del Farmaco all'immissione in commercio del Remdesivir per il trattamento del Covid-19 in adulti e adolescenti dai 12 anni di età con una polmonite che richieda il supporto respiratorio. Si tratta del primo farmaco contro il coronavirus, secondo l'EMA, che riceve questa approvazione, che ora deve avere il via libera definitivo dalla Commissione Europea. Intanto l'OMS lancia l'allarme. Proprio in Europa tornano a salire casi di Covid-19. La scorsa settimana il continente ha registrato un aumento del numero dei casi per la prima volta da mesi, ha avvertito il direttore della sezione europea dell'OMS, Hans Kluge. 30 paesi hanno visto un aumento del numero di nuovi casi nelle ultime 2 settimane, ha precisato Kluge. Nello specifico, in 11 di questi paesi l'accelerazione della trasmissione ha portato a un'impennata molto significativa che, se non controllata, spingerà ancora una volta i sistemi sanitari sull'orlo del precipizio. Così ha accusato Kluge, salutando la reazione rapida di alcuni paesi come Polonia, Germania e Spagna riguardo allo scoppio di nuovi focolai nelle scuole, nelle miniere di carbone e nei siti di produzione alimentare. Secondo l'OMS, l'Europa registra ogni giorno circa 20.000 nuovi contagi e oltre 700 decessi. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sempre in settimana la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha deciso che il Parlamento era legittimato ad adottare, tanto a Bruxelles che a Strasburgo, il bilancio dell'Unione per il 2018. Ora, cosa significa? Come sapete, l'istituzione europea, per la sua storia, per la sua di fatto sviluppo a strati, ha aperto il Parlamento a Strasburgo e poi quello a Bruxelles, che progressivamente è diventata, anche se vogliamo in parte per caso, soprattutto all'inizio, visto che doveva essere una sede temporanea, la vera capitale dell'istituzione europea. Bene, questa duplice presenza di Parlamento tra Bruxelles e Strasburgo viene risolta con la sede permanente di Bruxelles e le plenarie che avvengono a Strasburgo. Quando accade, cioè ogni mese in realtà, la plenaria sposta, trascina con sé oltre 700 deputati, assistenti, giornalisti. Insomma, l'accusa a questo nomadismo tra Belgio e Francia è di essere la causa di sprechi enormi, sprechi che dovrebbero, in molti lo pensano, essere risolti una volta per tutte fissando la sede, quella più utilizzata, cioè Bruxelles. Abbiamo voluto sentire su questo il corrispondente da Bruxelles del Sole 24 Ore, Beda Romano. Tra le tante conseguenze della pandemia influenzale vi è anche la chiusura temporanea della sede del Parlamento europeo a Strasburgo. Complice l'interruzione dei viaggi, la grande aula plenaria della città francese è rimasta chiusa per 6 mesi. Potrebbe riaprire in settembre. Nel frattempo, i deputati si sono riuniti nella loro sede di Bruxelles, meno fastosa ma più vicina alle altre istituzioni comunitarie. La spola mensile tra Bruxelles e Strasburgo di centinaia di deputati, funzionari, lobbisti e giornalisti è una delle tante astrusità dell'Unione Europea. Per molti grida vendetta, è uno spreco finanziario, oltre che un regalo agli alberghi e ai ristoranti della città alsaziana, che per una settimana al mese aumentano spudoratamente i prezzi. Eppure la scelta di porre a Strasburgo la sede del Parlamento non è banale. La città simboleggia la riconciliazione franco-tedesca dopo tre guerre. In una confederazione di stati sovrani, le istituzioni comunitarie sono state distribuite nei vari paesi europei. La Corte in Lussemburgo, la Commissione a Bruxelles, la Banca Centrale a Francoforte, l'Agenzia per la Sicurezza Alimentare a Parma e così di seguito. Certo, l'accentramento è più efficiente, ma la politica ha le sue esigenze. Un grande paese federale, come la Germania, ha mantenuto tuttora le sedi di alcuni ministeri, tra cui la difesa, la salute e l'ambiente, a Bonn, la vecchia capitale. Se dovessimo fare una classifica degli sprechi, forse, tanto per fare un esempio, autostrade mai completate sono più criticabili della doppia sede del Parlamento europeo. Da Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Trattativa in corso sul maxi fondo della ripresa, un buon clima ma diverse le divergenze, così Angela Merkel dopo il vertice UE di venerdì scorso dedicato al bilancio comunitario che di fatto è il quadro all'interno del quale qualsiasi finanziamento si deve muovere. Come sapete, o se non lo sapete ve lo diciamo, il rinvio ci rimanda alla metà di luglio. L'obiettivo è quello di trovare prima di agosto un accordo sul budget e sul pacchetto da 750 miliardi incorporato nel bilancio comunitario. Ora, lavoro in corso come abbiamo detto, vi facciamo solo sentire questa settimana in proposito un passaggio del ministro per gli affari europei Enzo Amendola su questo tema, su quello del cosiddetto Next Generation European Union, che la prossima generazione ormai ha preso questo nome anche con intenti chiaramente simbolici, è stato ospite a inizio settimana a Radio 24. Le tre reti di protezione, SURE per la disoccupazione, BEI e MES, linea di credito per la sanità, sono state già attivate, sono sul tavolo e sono strumenti a disposizione degli stati che ne vogliono usufruire. Quindi il Consiglio europeo adesso discute di bilancio e di Next Generation. Poi ogni paese discuterà come attivare, quale attivare. L'Italia sicuramente attiverà velocemente SURE per la disoccupazione e, come abbiamo sempre detto come governo, dopo che chiuderemo anche questa ennesima trattativa da qui a luglio, valuteremo tutti gli strumenti che hanno anche delle valenze di impegno e risorse retroattive. Tra un momento, subito dopo gli aggiornamenti, invece, per chi è in viaggio in automobile, andremo in un paese, ci collegheremo con Zagabria, capitale della Croazia, che è l'ultimo paese entrato nell'UE, era il 2014, che va al voto tra pochi giorni e dove appunto sentiremo anche in che modo il Covid impatta su quella che è un'industria, quella turistica, essenziale per il nostro vicino di Adriatico. A tra poco. Promo 24. Per una ripartenza nel segno della salute e della sicurezza, Schindler, società leader nel settore degli ascensori e scale mobili, presenta Schindler Hygienic, la gamma di soluzioni innovative per scale mobili e ascensori sempre igienizzati e virus-free, dalla tecnologia a raggi UVC per la sanificazione profonda dei corrimani delle scale mobili e delle superfici interne degli ascensori, alla purificazione dell'aria in cabina, all'uso di speciali pellicole antibatteriche. Schindler ha pensato a tutto con un unico obiettivo: innovazione e tecnologia per ascensori e scale mobili sanificati e sicuri. Schindler Hygienic è l'ideale per uffici, hotel, supermercati e centri commerciali, ospedali, stazioni e aeroporti e non solo. Tutte le info su schindler-hygienic.it. Europa, Europa. Ben ritrovati cari ascoltatori in questa seconda parte di Europa Europa. Adesso parliamo di elezioni, riprendiamo diciamo la nostra esplorazione nello spazio dell'Unione e anche ai suoi confini. Lo facciamo con un ospite, un collega, è Giovanni Vale, corrispondente da Zagabria dell'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa. Intanto Giovanni, grazie di essere con noi, buongiorno. Buongiorno a te e agli ascoltatori. Allora, elezioni, dicevo, in questo 27 giugno abbiamo domani elezioni presidenziali in Polonia, abbiamo avuto il 21 giugno scorso il voto in Serbia e avremo il 5 luglio in Croazia il voto appunto per il Parlamento. Io direi che ci focalizziamo appunto da Zagabria, quindi da una delle capitali dei Balcani meridionali, anche se diciamo nella parte più vicina a noi. Allora, Giovanni Vale, io vorrei innanzitutto chiederti una piccola battuta su quanto accaduto in Serbia. Il risultato netto, il partito di fatto di governo si conferma, addirittura si parla di rischio partito unico. Perché? Perché è avvenuto quello che ci si aspettava, diciamo, l'opposizione, quasi tutta l'opposizione ha boicottato le elezioni, non ha partecipato al voto e il partito di Aleksandar Vučić, l'attuale presidente della Serbia, ma che è stato anche primo ministro, no? Con questa tattica che è quella di Putin, se vogliamo, di passare da premier a presidente, ha ottenuto oltre il 60% dei voti e avrà in Parlamento quasi, se non sbaglio, 2/3 dei seggi. Il partito che è arrivato secondo è quello dell'attuale ministro degli esteri, quindi un alleato di Vučić, che ha ottenuto il 10%, quindi sostanzialmente abbiamo a che fare con un Parlamento quasi monocolore. È una notizia, appunto, come dicevo, che non stupisce date le premesse dello scrutinio, quindi che l'opposizione ha boicottato il voto, ma che però conferma la deriva antidemocratica, insomma, il grande problema della democrazia in Serbia. Ecco, a proposito di Putin che hai citato all'inizio del tuo intervento, Putin è stata anche la prima destinazione di visita immediatamente dopo i risultati del vincitore di Vučić. Ora, poiché queste cose non sono casuali, viene da pensare che continuerà la Serbia a mantenere questo ruolo particolare, da una parte con la richiesta di ingresso nello spazio dell'Unione Europea, dall'altro la relazione storica con Mosca. Assolutamente, questa è stata la politica estera di Vučić negli ultimi anni e anche durante la pandemia, se vogliamo, non solo con la Russia ma anche con la Cina di recente. Non so se gli ascoltatori si ricordano, ma qualche settimana fa c'era stato, appunto nel pieno della pandemia, c'era stato un po' uno scandalo perché Vučić aveva celebrato da Belgrado il fratello cinese, il presidente Xi Jinping, ringraziandolo di aver mandato del materiale medico-sanitario in aperta contrapposizione con l'Unione Europea, che pure sostiene la Serbia in generale, i Balcani occidentali, con investimenti ben maggiori. Questa è, diciamo, la politica estera che Vučić ha gestito, che Vučić ha voluto negli ultimi anni. Quindi da un lato il dialogo con Bruxelles, dall'altro questa apertura a Mosca e a Pechino, e assolutamente sarà una politica che lui continuerà. Insomma, una sorta di terza via che, memore la Jugoslavia, la Serbia porta avanti ormai per conto suo. Veniamo alla Croazia. Croazia dove, dicevamo, elezioni il 5 luglio prossimo, due schieramenti che di fatto si sono consolidati nella storia appunto di questo paese, da una parte l'HDZ, dall'altra i socialdemocratici. Che cosa ci si attende da questo voto? Diciamo che è un voto abbastanza aperto, stando perlomeno ai sondaggi che danno un testa a testa tra appunto l'HDZ dell'attuale primo ministro Plenković e i socialdemocratici. Bisognerà vedere chi la spunterà tra i due e anche quale sarà il ruolo di Škoro, ex candidato alla presidenza qualche mese fa, che ha perso le presidenziali, ma che ha formato un movimento di estrema destra che ha raggruppato, attirato diversi simpatizzanti di quelli, insomma, diversi ex simpatizzanti dell'HDZ, e che quindi rischia da un lato magari di togliere peso all'HDZ, dall'altro di diventare un possibile alleato per il dopo voto. Quindi diciamo la stampa croata discute tra queste due opzioni: si va verso una grande coalizione, quindi destra-sinistra, si va verso invece un governo tutto a destra con anche l'estrema destra all'interno, oppure la spunterà la sinistra con la propria coalizione. È ancora un po' tutto da vedere. Ecco Giovanni, l'estrema destra croata ci porta a riflettere sui confini, in particolare su quello della Bosnia, sull'Erzegovina. Voglio dire, le implicazioni in questo spazio della ex Jugoslavia sono ovviamente legate a un passato non tanto passato, che è quello degli anni 90, della guerra, della frammentazione del paese. Ci sono dei rischi di tensioni sul fronte della Bosnia e dell'Erzegovina in particolare? Beh, il passato, come dici giustamente, da queste parti non è proprio più passato prossimo che passato remoto, e dal punto di vista politico gli anni 90, la guerra, il nazionalismo sono tuttora molto presenti. Croazia e Bosnia hanno un legame forte, perché in Bosnia c'è una minoranza croata che costituisce uno dei tre popoli costitutivi della Bosnia-Erzegovina, assieme ai bosniacchi e ai serbi, e dal punto di vista politico c'è un legame netto, che è quello tra l'HDZ, quindi il partito fondato da Tudjman in Croazia, e l'HDZ della Bosnia-Erzegovina, che è praticamente la costola bosniaca dell'HDZ. Lì oscilla la relazione tra aperte influenze e ingerenze nella politica bosniaca a un comportamento più corretto, anche se non so se si è mai arrivati a una relazione veramente tra vicini di casa, insomma, piuttosto che appunto un tentativo continuo di interferire nella politica bosniaca. Quello che i croati di Bosnia continuano a chiedere, o almeno una parte di loro, è che si costituisca una terza entità. Oggi la Bosnia è composta da due entità federate, e in una di queste croati e bosniacchi vivono assieme. Ecco, l'HDZ bosniaco per ora la causa della terza entità, quindi una nuova entità solo per i croati. E ora parliamo con Giovanni Vale, lo ricordo, lo abbiamo raggiunto a Zagabria, di Covid e turismo. In questa settimana ovviamente si è parlato parecchio anche di Djokovic, quindi di un campione, del campione, del numero uno al mondo di tennis serbo, che in un torneo di beneficenza in Croazia di fatto ha contribuito involontariamente, indirettamente, chissà, a rianimare un focolaio. Ora, per la Croazia il turismo, potremmo dirlo per tanti paesi europei, ma è sicuramente uno dei paesi che dipende di più dal turismo. In che modo questa situazione oggi viene gestita dal governo? Beh, intanto aggiungo una cosa all'aneddoto su Djokovic. Politica, Djokovic allora non ha stretto la mano, ma il primo ministro Plenković ha toccato la spalla nelle immagini che si sono viste, e quindi avrebbe dovuto il primo ministro finire in quarantena per 2 settimane, e lui si è invece rifiutato, dicendo che non ci sono, insomma, è risultato negativo, non ci sono stati i limiti, insomma, i requisiti perché andasse in quarantena. Ma è un grande dibattito. Per quanto riguarda il turismo, assolutamente, qui il turismo in Croazia rappresenta almeno un quinto del prodotto interno lordo, ed è un turismo di stagione, che quindi si svolge per lo più a luglio e agosto. Una volta tolta quell'economia lì, il paese è in grande difficoltà, quindi se quest'anno luglio-agosto non dovessero ricevere il numero di turisti dell'anno scorso, cosa certa, ma neanche la metà, neanche un terzo, ci sarebbero grandi problemi. Per il momento come la Croazia lo sta gestendo? Beh, si sono aperte le frontiere, si sta cercando di incentivare il turismo interno, che però ovviamente non può sostituire quello estero, no? La Croazia ha 4 milioni di abitanti, riceve 20 milioni di turisti, questi dati dell'anno scorso, quindi non potrà mai, diciamo, fare a meno di quei dati. Croazia che punta a entrare nello spazio Schengen anche per questo. Assolutamente sì, la Croazia vorrebbe, perché sai, le code ai confini queste le si trovano ogni estate, quindi lo spazio Schengen è una priorità prima ancora dell'euro, ed è tra l'altro per questo che alla frontiera tra Croazia e Bosnia la polizia croata continua a essere molto dura nei confronti dei migranti che cercano di attraversare, esponendosi anche ad accuse di tortura delle ultime settimane da parte di Amnesty International. Quindi non ci sono più solo i respingimenti illegali alla frontiera con la Bosnia, si è arrivati a un livello di brutalità decisamente insomma inaccettabile. Insomma, anche la Croazia vuole i turisti ricchi, vuole i turisti del nord, magari anche quelli italiani, non vuole certo i migranti che invece continuano a percorrere quella rotta. Esattamente, sì, i migranti che per questo magari è il problema del protocollo di Dublino, cioè la Croazia nel 2015, finché si sapeva che questi migranti potevano attraversare liberamente tutti i confini e arrivare in Germania piuttosto che in Svezia, in quell'anno, nel 2015, la polizia croata si era comportata bene. Adesso che si sa che il migrante che entra in Croazia farà domanda di asilo in Croazia e quindi diventerà un problema della Croazia, anche se la sua destinazione di partenza era la Germania o i paesi scandinavi, ecco, in questo caso le cose cambiano e la Croazia non vuole ritrovarsi con quel problema in mano e vuole invece mostrare a Bruxelles e agli altri paesi europei che è in grado di proteggere, diciamo, il confine della fortezza Europa, e lo fa con qualunque mezzo possibile. Grazie a Giovanni Vale, lo ricordo, corrispondente da Zagabria dell'Osservatorio Balcani e Caucaso e Transeuropa. Grazie di essere stato con noi, Giovanni. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata e buon voto, dunque, con gli aggiornamenti che naturalmente verranno e di cui vi parleremo. Con questo si chiude questo appuntamento di Europa Europa. Adesso tutti gli aggiornamenti da GR24, noi naturalmente ci sentiamo la prossima settimana.